Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Ma allora quei tipi col naso un po' lungo che si vedono da McDonald's sono i maschi? Sono i maschi, sì. Sono i maschi, sì. Sono i maschi che mangiano, si cibano bevono. Di cheeseburger. Cheeseburger, sono i maschi. Allora, siete a Mebius, adesso sentiamo i titoli e poi incominciamo con la domanda che risponderà a questo interrogativo. Se è la femmina a pungere, il maschio cosa mangia? Il nostro piccolo ascoltatore Livio si interroga sulla dieta delle zanzare. Si chiama Dry Mat, è la super ceramica messa a punto dal CNR di Faenza. Finalmente piastrelle e sanitari repellenti all'acqua e che si puliscono da soli. Meno dormiamo, più il nostro cervello è reattivo. Ma attenzione, non vuol dire che lavora meglio. Una ricerca italiana conferma le ipotesi sulla funzione del sonno. Le micotossine nella filiera agroalimentare è il titolo di un convegno che si è tenuto a Roma sulle sostanze tossiche che si nascondono nei nostri cibi. Allora, non siamo alla zanzara, come magari qualcuno potrà immaginare, perché ci occupiamo di zanzare, ecco. Però in maniera scientifica, quindi entomologica, rigorosa, rigorosissima. Allora, io se siete d'accordo inizierei come sempre ricordando i contatti attraverso i quali potete giungere a contatto con noi e mandarci le vostre domande più curiose. Attenzione, questa settimana la domanda arriva da un piccolo ascoltatore di 7 anni che si chiama Livio, quindi anche i bambini a questo punto apriamo a tutti, anche i bambini possono mandarci le loro domande. Sì. Allora, chi volesse scriverci via mail, mebius@radio24.it. Ma potete pungolarci anche via Facebook, Moebius Scienza. E poi c'è per ultimo Twitter, Moebius_online. E ora la parola al piccolo Livio. Buonasera. Ma la zanzara maschio, se non punge gli uomini, come fa a nutrirsi? Grazie. Vedi? Educatissimo, ecco, bravissimo il nostro Livio. E la domanda... a McDonald's, sono in questi posti, perché si spede anche poco. I maschi però, le femmine invece, diciamo che le conosciamo bene, perché a ci infastidiscono. No, in giro a mangiare. Ci infastidiscono nelle notti afose estive, cioè come quella di stasera. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Bologna, andiamo... Il regno della zanzara. Il regno della zanzara. Ma perché dite questo? Non è vero. Andiamo dal professor Stefano Maini, entomologo. Buonasera Maini. Buonasera. Dell'Università di Bologna, in realtà. E che rispondiamo al piccolo Livio? Ma al piccolo Livio ha fatto una domanda interessante e direi che è vero, i maschi delle zanzare sono, tra virgolette, più buoni, nel senso che non si nutrono di sangue, quindi non fanno quello che viene detto pasto di sangue. Che cosa serve alla femmina fare un pasto di sangue e al maschio invece no? Ma è abbastanza chiaro che la femmina deve maturare le proprie uova e quindi per fare questo ha bisogno di proteine e durante l'evoluzione le femmine hanno imparato a pungere gli uomini ma anche tanti altri animali. E allora il maschio cosa mangia? Cheeseburger? No. No, il maschio o non mangia, e in questo caso avrà una bella silhouette magra, altrimenti si ciba di sostanze zuccherine, quindi le sostanze zuccherine possono essere ritrovate per esempio nei fiori. Anche il maschio ha una particolare struttura nella bocca che può succhiare, quindi può succhiare un po' di liquidi zuccherini, di nettare, oppure anche dello zucchero che può trovare in giro. Insomma, in giro voi direte, ma qual è lo zucchero che si trova in giro? Lo zucchero che si trova in giro è quello che emettono per esempio i pidocchi delle piante, gli afidi. Ah, il migliore proprio. Sì. Altro che McDonald's. Anche gorgoglioni, eccetera. No? Loro succhiano la linfa delle piante e poi emettono questa melata e quindi le zanzare maschio si possono nutrire di melata. Sì, ma senta Maini, ma questo dipende anche dal fatto che vivono 48 ore, quindi uno anche se non mangia, insomma, se la cava o... Sì, vivono poco e quando si sono accoppiati i maschi basta. Chiudono la loro esistenza e buonanotte. E quanto è più o meno il ciclo vitale? Ma il ciclo vitale è molto rapido, dipende ovviamente dalle specie, perché sa, di specie di insetti ce ne sono milioni e milioni. Sì, sì, certo. Di zanzare ce ne sono tanti, ma insomma vive quanto? A seconda delle temperature, può vivere una settimana, può vivere un mese. Ah, ecco. Ah, fino a un mese? Sì, sì. Ah, allora mangiare bisogna. E poi ce ne sono alcune addirittura che possono passare l'inverno allo stato adulto. Ui, ma qui allora lei ci apre uno scenario, la zanzara può vivere molto anche. Sì, alcune specie, ma d'inverno però poi stanno lì buone buone, aspettano la buona stagione, le nostre zanzare. Vanno in letargo. Esatto, vanno in una sorta di letargo. Sono quelle che magari si trovano negli ascensori, per esempio, d'inverno, che fa un po' impressione, sono quelle lì. Esatto, sono quelle lì. E poi molto spesso si confondono quando si vedono quelle zanzare enormi. Ecco, non è che è una zanzara che è cresciuta, è proprio un'altra specie, non è una zanzara, ma noi lo chiamiamo un tipulide, che quelle non pungono, quindi pur essendo così grandi... Stiamo tranquilli. Meno male, perché quelle fanno paura da vedere. Sì, ma quelle fanno una gran paura, però in realtà sono innocue. Ma le femmine invece si nutrono esclusivamente di sangue? Sì, sì, si nutrono esclusivamente di sangue, fanno questo pasto di sangue, e ci sono addirittura alcune specie che riescono a deporre le uova anche senza nutrirsi. La stragrande maggioranza delle specie ha bisogno di questo pasto di sangue, e purtroppo quando succhiano il sangue, poco prima immettono la saliva. Che è quella che fa male. Che è quella che fa, diciamo, venire il tonfo, no? Certo. Venire l'irritazione. L'infezione. Ma purtroppo in certi casi è nella saliva che ci sono delle malattie, ci sono dei virus, ci possono essere dei, si chiamano i protozoi, la malaria, per esempio. Ecco, ad esempio. Ecco, quella quindi è il grosso problema. Quindi, diciamo, queste zanzare possono essere dei vettori di malattie. Ecco, invece quello che si pensa di solito, che pungano soltanto il sangue dolce, perché a loro piacciono appunto questi cibi zuccherini, e allora è vero che quelli che non vengono punti dalle zanzare hanno il sangue amaro? No, questo no. Sono frottole. È una leggenda metropolitana, come si dice oggi, non c'entra questo. È chiaro che le zanzare hanno... le zanzare femmine in questo caso hanno una preferenza a pungere certe persone rispetto ad altre. Ma culturale, cioè da che cosa dipende? No, questo può dipendere da particolari, addirittura sostanze che uno ha mangiato. Per esempio, pare che anche scientificamente chi si nutre molto di aglio potrebbe essere punto meno. È chiaro che uno non può andare in giro Genova con una puzza d'aglio spaventosa. Ma infatti l'aglio lo sentono, ma cos'è che possono sentire che invece piace? Che piace sicuramente è l'anidride carbonica che noi emettiamo respirando. Una vera prelibatezza. Ecco, quando noi siamo lì, diciamo, col caldo, distesi sul letto, notte, e ci ronza la zanzara nell'orecchio, dovremmo smettere di respirare. Sta arrivando vicino alla nostra anidride carbonica che emettiamo. Ecco, dovremmo imparare a dormire in apnea. Ecco. E poi un'altra cosa che appunto anche questa è stata dimostrata scientificamente è che preferiscono pungere le persone che hanno sono leggermente addirittura febbricitanti o sono un po' di che non stanno tanto bene, che hanno la temperatura corporea alta. Cioè, oltre al danno, la beffa. Esatto, e questo sembra poi in relazione all'evoluzione della malattia, per esempio malaria. Quindi la zanzara, se aveva una persona malata di malaria, una persona invece ancora sana, indenne, andava a pungere proprio quello con la malaria e quindi ad aumentare la probabilità di trasferire la malaria. Si accaniscono, non sono animali buoni, va bene. Questa è la natura, purtroppo, che non sempre è benigna, cioè abbiamo tante cose di natura che... È vero. Vabbè, ci tocca parlare anche poi, di questo. Forse per me, per la quantità di sangue che gli si dà, glielo lascerei anche, è il fastidio. Sarebbe un problema, in effetti, non sarebbe un problema, perché noi, anzi, ogni tanto un qualche salasso potrebbe anche fare bene, no, alla salute. Lasciamo una ciotolina sul comodino. Va bene, grazie. Grazie, Maini. Spero di essere stato chiaro. Livio, studi l'entomologia perché è una materia affascinante. Potrei presentarvi quello che sta per raccontarvi Chiara Albicocco come il sogno del single, dei single. Ascoltate. La chiamano la super ceramica. Arriva da Faenza, ovviamente la patria della ceramica italiana, ed è stata messa a punto nei laboratori dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del CNR, appunto, di Faenza. Qui con noi stasera c'è una delle ricercatrici che ha inventato questa tecnologia e diamo il benvenuto a Maria Rosa Raimondo. Buonasera. Buonasera. Allora, ci spieghi innanzitutto che cos'è questa super ceramica, che il nome già evoca tutto. La superceramica è una ceramica che tutti vorremmo avere nelle nostre case, perché è una ceramica che si pulisce da sola, che non si macchia e che con qualche semplice accorgimento può rimanere sempre pulita nel tempo, assicurando quindi un aspetto sempre di pregio che rimane inalterato nel tempo. Ecco, quando noi parliamo di ceramica parliamo sia di piastrelle che di superfici sanitarie e così via, insomma. Sì, certamente. La superceramica può essere una ceramica intesa nel senso più classico, quindi come una ceramica per l'edilizia, quindi piastrella, ma anche altro materiale da costruzione, oppure un materiale sanitario che può essere quindi un pezzo ceramico che può essere che possiamo trovare nelle nostre case. Ecco, lei dice altamente repellente e si autopulisce. Ora dobbiamo capire come è possibile, perché noi abbiamo tutti presente le piastrelle delle nostre docce che sono tutto fuorché autopulenti e idrorepellenti. Sì, ciò che viene realizzato sulle ceramiche è qualcosa che assomiglia molto a ciò che esiste già naturalmente in organismi viventi o sistemi presenti in natura. Uno degli esempi più noti da cui abbiamo preso spunto è appunto la struttura della foglia di loto, che in natura esibisce una repellenza all'acqua estremamente elevata, che gli consente di rimanere sempre asciutta e pulita, perché l'acqua che cade su queste foglie non si deposita sulle foglie stesse, ma attraverso un meccanismo di rotolamento e scivolamento innesca un naturale fenomeno di pulizia. Quindi c'è una rimozione naturale continua di molecole contaminanti che possono essere presenti negli ambienti circostanti. Questa stessa prestazione, diciamo così, assolutamente naturale, abbiamo provato a replicarla su un materiale come quello ceramico. Diciamo che abbiamo avuto un buon successo, forse anche una buona dose di fortuna, però siamo riusciti a riprodurre su una ceramica, su materiali quindi che viene ottenuto per sintesi, una superficie estremamente sottile, parliamo di un rivestimento di pochi nanometri, che presenta una struttura tale e una composizione chimica che riusciamo a controllare nel modo opportuno, che ci garantisce di avere questa elevatissima repellenza nei confronti dell'acqua, che vuol dire poi che una goccia d'acqua che cade su queste superfici non si deposita, ma forma una sferetta. Assume una forma perfettamente sferica, più o meno sferica, ma nel nostro caso quasi perfettamente sferica, che attraverso un meccanismo di rotolamento e scivolamento porta via con sé le particelle di sporco che possono essere adese e quindi rimuove in qualche modo i contaminanti e gli agenti macchianti da questa superficie. Quindi possiamo dire che il segreto è questo microfilm di nanoparticelle, insomma, che viene deposto sopra alla superficie e che quindi gli conferisce questa caratteristica di essere completamente idrorepellente. Sì. È un film che ha le dimensioni ancora più piccole di un microfilm. Parliamo di dimensioni nanometriche, che sono, quindi parliamo di dimensioni dell'ordine del miliardesimo di metro. Il rivestimento è molto molto sottile, dell'ordine dei 200-300 nanometri. Questo non solo riesce ad assicurare la prestazione che desideriamo, ma riesce anche a far sì che questo rivestimento sia completamente trasparente e quindi non inficia in alcun modo l'estetica delle superfici o la colorazione che viene conferita a una ceramica, oppure il grado di lucentezza e così via. Quindi in qualche modo non modifica in apparenza in nessun modo la superficie, ma in realtà poi dal punto di vista della prestazione la struttura in modo tale gli dà delle caratteristiche chimiche molto particolari che sono poi in grado di esplicare questa funzione così ricercata. La vostra tecnologia è praticamente già stata brevettata, siete già in grado di produrre dei pezzi, diciamo delle piastrelle di questo genere? Sì, la tecnologia è stata brevettata, è una tecnologia che prevede qualche passo, diciamo così, per arrivare alla, al conferimento finale della prestazione, ma è una tecnologia che ha già un elevatissimo grado di trasferibilità industriale, quindi sappiamo già come trasferire i risultati alle aziende che fossero interessate a produrre questo tipo di prodotto. Come risultato finale avrebbe un costo molto più elevato rispetto alle piastrelle ad esempio tradizionali? Diciamo che a fronte di una prestazione così innovativa e di ricadute applicative veramente di grande rilievo, l'aumento dei costi non è così drammatico. Potremmo pensare ad un aumento dei costi fra i 5 e i 10 euro al metro quadrato rispetto al costo che ha in questo momento un materiale tecnico che è il più avanzato che ci può essere sul mercato, quale per esempio il grass porcellanato. Quindi vabbè, diciamo il top che si trova sul mercato. Ecco, questa è una soluzione ideale, io lo immagino, insomma, per tutti coloro che si trovano a fare i lavori domestici, ma avete anche pensato ad un materiale che possa essere ad esempio reso spray e quindi spruzzabile anche sulle piastrelle tradizionali che noi abbiamo a casa, quindi diciamo non comprare le piastrelle ad hoc, ma spruzzarlo su quelle che abbiamo già? Diciamo che i margini della ricerca sono tanti e uno dei nostri obiettivi è quello di arrivare ad una soluzione di questo tipo. Al momento il rivestimento può essere spruzzato su una ceramica, ma poi ha bisogno di un trattamento termico che in qualche modo industriale. Sì, industriale, che in qualche modo garantisca che questo rivestimento sia attaccato nel tempo al materiale, perché uno dei problemi che ci siamo posti è quello non solo di conferire la prestazione, ma di fare in modo che questa duri nel tempo, perché sarebbe un risultato di poco conto quello di fare un prodotto innovativo che però non abbia, diciamo, la durabilità nel tempo, nelle condizioni di esercizio che tutti ci immaginiamo in un ambiente domestico oppure in un altro ambiente che deve avere comunque certi requisiti di durata nel tempo. Al momento è un processo industriale, quindi non è un processo, diciamo così, mutuabile a livello casalingo. Per ora sarebbe troppo bello, va bene, insomma noi lo aspettiamo, però insomma i risultati che avete ottenuto sono molto positivi, vi fanno ben sperare, tanto che state lavorando anche su altri materiali che avrebbero applicazioni ancora forse più importanti. Sì, la ceramica è stato il nostro punto di partenza, ma sicuramente non il nostro punto di arrivo, ed è anzi stato motivo di spunto per tutta una serie di altre sperimentazioni che sono partite e che hanno riguardato e stanno riguardando molti altri tipi di materiali, primi fra tutti i metalli. A questo proposito abbiamo appena depositato un nuovo brevetto per quanto riguarda la deposizione di rivestimenti con queste stesse prestazioni su metalli, leghe o anche compositi. Qui le ricadute applicative sono, diciamo, almeno quelle ipotizzabili, sono di rilievo forse ancora più grande, perché riguardano ambiti applicativi industriali estremamente importanti sia per l'economia nazionale che per quella internazionale. Ci fa qualche esempio per farci capire? Sì, per esempio sui metalli abbiamo realizzato questi rivestimenti con questa estrema repellenza nei confronti dell'acqua, che possono avere una ricaduta estremamente importante, per esempio come materiali antighiaccio. Molto semplicemente possiamo dire che se una superficie è repellente all'acqua, quindi respinge, diciamo, l'acqua, su queste superfici una goccia d'acqua non risiede, non ci sta, e quindi non ha neanche il tempo di ghiacciare quando queste superfici sono esposte a condizioni ambientali molto severe, quale può essere un ambiente climatico particolarmente rigido oppure diciamo gli strati atmosferici nei quali vola un aereo, eccetera. Quindi ecco, appunto, potrebbe essere applicato sulle ali degli aerei, sui parabrezza, dei mezzi di trasporto, di qualsiasi veicolo che si trova ad attraversare appunto zone climatiche rigide, quindi veramente utilissimo anche per la sicurezza in qualche modo, non solo per la nostra economia domestica. Ecco. Abbiamo già dei riscontri preliminari che ci dicono che le nostre superfici presentano una ottima resistenza al ghiaccio, Quindi sulle nostre superfici, anche in condizioni diciamo estreme e comunque controllate, il ghiaccio tende a non formarsi, proprio perché sulla superficie l'acqua scivola e quindi il ghiaccio non ha proprio fisicamente il tempo di formarsi. Ecco, proprio in questi giorni dicevate che state lavorando proprio in Galleria del Vento per testare questo tipo di superficie. Stiamo costruendo tutta una rete di collaborazioni anche internazionali, prima nazionali e poi internazionali, per testare nella maniera più opportuna i nostri campioni. E proprio in questo periodo stanno per partire alcuni campioni opportunamente con la morfologia opportuna e con un design, diciamo, opportunamente progettato, per andare a fare prove in Galleria del Vento e quindi verificare poi sul campo quali sono le effettive prestazioni di questi materiali. Va bene, insomma, in bocca al lupo, ci tenga informati perché ci interessa molto questo aspetto tecnologico made in Italy che è sempre all'avanguardia. Buon lavoro, Raimondo. Grazie mille, grazie a tutti. Chiara e Alberto adesso vi raccontano che... ascoltate. Sì, Federico, prendiamo la parola adesso che l'ora è tarda. I bambini sono andati a dormire. Alberto, possiamo parlare di... Possiamo parlare di alcol e anche di sesso. Sì, tranquillizzatevi però, non umani. No, non parliamo di esseri umani, ma parliamo di moscerini, moscerini della frutta. Drosophila melanogaster, per chi se ne intende. Celeberrimi. Sono molto diffusi, sono molto famosi tra i biologi e i biotecnologi, perché di loro si conosce tutto, si conosce il genoma, sono molto molto studiati, quindi nei laboratori sono conosciutissimi e famosissimi. Però... qui ne parliamo perché? Perché per continuare a scoprire cose più che su di loro, sugli esseri umani, gli si fa fare di tutto e in questo caso li si fa ubriacare. Sì, diciamo che non è la prima volta. No. Non sono esperimenti rari. Già nel 2008 su Nature si parlava di una ricerca che appunto faceva vedere come l'esposizione all'alcol li rendeva sessualmente più attivi, vigorosi. E anche qui c'è un legame evidentemente con quello che succede al genere umano. Poi si è visto che l'alcol comunque anche nei moscerini può dare dipendenza, cioè crea piacere e quindi una dipendenza, una voglia di continuare a farlo. E oggi? E oggi su Science, la notizia è di 2 giorni fa, è uscita una nuova ricerca dell'Università di California a San Francisco, secondo cui invece la mancanza di sesso induce i moscerini a consumare più alcol. Che un po' funziona anche per noi così, forse, non lo so. Comunque i ricercatori hanno scoperto una molecola a doppia azione prodotta dal cervello che mette in relazione la vita un po' depressa sessualmente e la voglia di consumare alcol. E questa stessa molecola potrebbe essere collegata alla dipendenza anche dell'uomo. E poi c'è di più, chissà se un giorno scopriranno che anche i moscerini portano fuori le femmine a bere. Tu però, Alberto, che hai seguito questo servizio da vicino, qui noi parliamo del cervello sveglio, ma non di quello furbo e attento. No, sveglio proprio nel senso che non ha dormito. Che non ha dormito. E infatti mi rivolgerei a tutti gli ascoltatori di Mebius che fanno tardi per ascoltarci, ma perché dopo aver sentito la puntata vanno a ribeccare tutti i podcast e si riascoltano anche le puntate più vecchie, ci scrivono le mail, vanno a leggere le nostre schede sul sito, insomma... Un grande entusiasmo intellettuale. Le 5 di mattina per sentire Mebius. Attenzione! Perché sorprendentemente il cervello è più reattivo, più eccitabile si dice, però non vuol dire che imparano di più. Quindi un buon sonno ristoratore sicuramente è più eccitabile quando sei stanco, questo è il tema. Questo è il tema. Funziona un po' meglio quando è stanco, ma non so, va bene, noi abbiamo... Abbiamo un esperto che ce lo può spiegare, insomma, che è un medico neurofisiologo dell'Università di Milano ed è Marcello Massimini qui con noi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Buonasera Massimino. Allora il consiglio è non dormire. No, in realtà poi alla fine, come vedremo, non è così. Anzi, pisolino ci sta. Diciamo, ci sta. Il cervello è più eccitabile, ma non è detto che questo sia un bene. Questo è quello che... Entriamoci dentro. Alla fine vedremo. Specifichiamo subito questo aspetto. Ma il tema, diciamo, è questo. Sostanzialmente gli esperimenti che abbiamo fatto, quello di cui vi parlerò, ha a che fare con, diciamo, la ricerca che riguarda uno dei misteri rimasti della biologia, uno di quelli grossi, che è la funzione del sonno. Cioè perché passiamo un terzo della nostra vita in uno stato di inutilità, in cui siamo disconnessi dall'ambiente, inermi, eccetera. Ci deve essere una buona ragione. E la ricerca sul sonno è qualcosa che ha una lunga storia, una trentina d'anni, ma ci sono sostanzialmente due scuole di pensiero che derivano entrambi da evidenze solide, da dati sperimentali decisamente importanti. La prima è quella che il sonno in qualche modo serva a dissipare qualcosa di tossico che accumuliamo durante la veglia, qualche prodotto del metabolismo cerebrale che produciamo durante la veglia. E questa ipotesi deriva dall'evidenza che più siamo svegli, più abbiamo bisogno di dormire. In particolare, quello che è regolato molto finemente è la quantità di onde elettriche lente che i neuroni della corteccia cerebrale producono durante il sonno. Cioè sono delle onde che durano circa un secondo di attività e silenzio che attraversano tutto il cervello. Noi ne facciamo 1000, 2000 ogni notte, anche 4000. La quantità e la profondità di queste onde sono regolate. Cioè più stiamo svegli e più il cervello è attivo, è ingaggiato dalla realtà, impara, più deve fare queste onde. Questo si sa. Tanto è vero che queste onde si vedono di più nella parte frontale del cervello, che è quella che noi usiamo di più tutti i giorni, quando prendiamo decisioni, siamo implicati in questioni sociali, eccetera, eccetera, no? Questa è la prima evidenza. E quindi si è andato a cercare una sostanza che si accumulasse e così via, ma non si è trovato nulla. Perché si diceva queste onde serviranno a scaricare questa sostanza. Serviranno a scaricare qualcosa, ma non si è mai trovato nulla, radicali liberi, si è provato tutto. L'altra ramo, diciamo, l'altra scuola, ha a che fare con un'altra evidenza altrettanto forte, che è questa. Lei, se per esempio impara a giocare un giochino elettronico la sera, si mette lì e impara il Tetris per la prima volta, mano a mano che gioca fa un punteggio sempre più alto e a un certo punto raggiunge un plateau, ovvero non migliora più. Va a dormire, la mattina dopo rigioca, credo che questo sia capitato a tutti, ma poi si verifica quantitativamente, sperimentalmente, lei è migliorato di un 20%, ma nel frattempo non ha fatto nulla, ha dormito. Non è che sonnambulo e ha giocato di notte. Certo. No, e quindi la scuola numero due dice, ma il sonno serve a consolidare quello che apprendiamo durante la veglia, perché probabilmente il cervello si mette a ripassare, cioè i neuroni si riattivano durante il sonno nello stesso modo in cui sono riattivati durante veglia e consolidano quello che hanno appreso. C'è anche quest'altra cosa che si dice, no, beh, si verifica. Non riesco più a scrivere niente a luna di notte, mi sveglio e lo faccio molto meglio, o addirittura per i calcoli matematici si trova una soluzione al mattino. Ma è la stessa cosa o è solo affaticamento? Beh, noi chiamiamo affaticamento probabilmente una cosa che non invece è solo affaticamento, c'è qualcosa in più che lei guadagna con il sonno, non è semplicemente che lei recupera, diciamo, un livello di base che va la sera prima di essere stanco, proprio lei ci guadagna dormendo. Questa è l'evidenza, che è forte, è così, solo che anche lì si è cercato sperimentalmente di vedere, di cercare i neuroni che si riattivano durante il sonno allo stesso modo, gli stessi schemi di attività che c'erano durante veglia e così via, ma non si trovano questi, proprio perché il cervello durante il sonno fa un tipo di attività che è molto semplice, stereotipata, sono queste onde così. E quindi tutte e due le ipotesi alla fine non sono mai state verificate, eccetera, eccetera. Ce n'è una terza, a questo punto, che è quella che abbiamo verificato, che le mette insieme. E questa ipotesi, che per la cronaca è stata formulata da uno psichiatra italiano che si chiama Giulio Tononi, che lavora negli Stati Uniti, però dice questo: noi durante il giorno apprendiamo, su questo non c'è dubbio, lei la sera guarda indietro e si ricorda tantissime cose accadute durante la giornata, alcune di queste sono rilevanti, altre decisamente meno, sì. E il substrato neurale, se andiamo a vedere nel cervello cosa succede, questo è noto, della memoria, del fatto che lei si ricorda tutto, è il fatto che le connessioni tra i neuroni sono diventate più forti, ovvero la plasticità delle sinapsi, cioè delle connessioni tra i neuroni. Quindi si è creata qualche sinapsi che non c'era, qualche connessione nuova, e quelle che già c'erano si sono rinforzate. E questo è un bene, perché è il substrato dell'apprendimento. Il problema qual è? Che la scatola cranica è un contenitore inestensibile e più di tante connessioni non ci stanno, il processo non può andare avanti all'infinito, tanto più che le connessioni consumano tanta energia. Quindi, se non ci fosse un meccanismo di regolazione, il suo cervello diventerebbe sempre più connesso, sempre più pesante, sempre più energicamente insostenibile, e alla fine lei non potrebbe più apprendere, saturerebbe la sua capacità di fare connessioni e apprendere. È un po' come l'hard disk di un computer, oppure è un sistema di spazio e di energia. Una lavagna che si riempie. Mi sembra un ottimo esempio, già, è così. Esattamente. Allora, l'ipotesi terza cosa dice? Dice, è vero, c'è qualcosa che si accumula, ma questa cosa che si accumula non è una sostanza chimica, una sostanza tossica, ma la forza delle connessioni. Queste connessioni vanno poi regolate in qualche modo, sennò noi non ce la facciamo più, non possiamo andare avanti. Dopo 3 giorni avremo esaurito la nostra capacità di adattarsi all'ambiente e così via. Per cui a questo punto arrivano le onde del sonno. Le onde del sonno sono come degli spazzini che passano tutto il cervello migliaia di volte durante la notte e sostanzialmente potano le connessioni metaforicamente, cioè ne abbassano la forza in modo omogeneo in tutto il cervello. Il risultato finale qual è? Quelle più forti sopravvivono, un po' una pressione selettiva di tipo darwiniano, se vogliamo. Quelle deboli, che lei ha fatto per caso, che non sono così importanti, se ne vanno via completamente. Alla fine lei la mattina si sveglia con un cervello che è più leggero, ma che ha mantenuto le differenze, e quindi è un cervello che è anche più pulito, nel senso che quello che lei ha imparato si staglia su un sottofondo, su una lavagna più pulita, e quindi ecco perché la sua performance, la sua memoria è migliore, ecco perché scrive meglio, magari fa anche i calcoli meglio e gioca a Tetris meglio. Quindi in questo modo si concilia l'aspetto di effetto sull'apprendimento, di consolidamento, e l'aspetto, diciamo, di smaltimento di un qualche cosa. Ecco, però mi scusi, siccome non dormiamo ogni due anni, ma dormiamo in continuazione, viene spazzato via quello che è meno significativo, però un po' di roba in più c'è. Vuol dire che allora c'è spazio nel cervello, nel senso che comunque si accumula tanto. Spazio ce n'è, però tenga presente che qualcosa che viene ridotto, cioè alcune cose spariscono proprio, quindi è un processo algebrico, per cui la media delle connessioni è sempre la stessa. Alcune sono più forti, altre vengono addirittura cancellate. Quindi diciamo che la quantità di connessioni totali è uguale, quello che cambia è quali sono. E lei raffina continuamente nel cervello, dalla nascita alla fine della vita, il tipo di connessione, la qualità delle connessioni, non tanto la quantità. Per esempio, un bambino nasce con un cervello che è super connesso. Il bambino nasce con un cervello dove è tutto connesso con tutto, e il processo di apprendimento avviene più per un processo di scultura della materia che c'è, che viene buttata via per fare una forma che va negli anni. Tant'è vero che il bambino dorme tantissimo. Se lei misura la differenza del cervello di un bambino, il bambino passa ore a fare queste onde lente, ne fa altro che 3.000, ne fa tantissime, proprio perché deve scolpire. Quindi è un processo di scultura, di potatura, che porta alla definizione di un circuito ottimale, giorno dopo giorno, in questo altalenarsi di apprendimento, aumento delle connessioni e riselezione. Quindi è un processo ciclico di questo tipo. Questo è quello che siamo andati a verificare, nel senso che se questo è vero, se l'ipotesi è corretta, c'è una predizione fondamentale che non era mai stata verificata nell'uomo. Cioè, se ciò è vero, noi dobbiamo misurare un aumento delle connessioni durante la veglia e una riduzione delle connessioni dopo che il soggetto ha dormito. L'aumento delle connessioni tra i neuroni si misura stimolando un gruppo di neuroni A, diciamo, e vedendo come risponde B. Se le connessioni sono forti, B risponde molto forte. Se le connessioni sono deboli, B risponde con una risposta piccolina. E questo è quello che abbiamo misurato con una tecnica particolare. Non entro nel dettaglio, ma è uno stimolatore magnetico che attiva un pezzettino di corteccia cerebrale in modo non invasivo, indolore. Una calamitona sul cervello, insomma, sulla testa. È una martellatina, sulla corteccia cerebrale, e vediamo come l'eco si espande nel cervello, sostanzialmente la forza con cui si espande. Più le connessioni sono forti, più forte si espande. E quello che vediamo è che la mattina abbiamo una risposta di una certa ampiezza, e questa risposta, mano a mano che il soggetto sta sveglio, già il pomeriggio e la sera, è decisamente aumentata, fino al 20%, e se addirittura teniamo il soggetto sveglio una volta, arriviamo fino al 30-40%, che è tanto, se ci pensiamo, perché qui parliamo della corteccia cerebrale, l'organo che ci ospita sostanzialmente, quindi sono modificazioni importanti. Quando il soggetto va a dormire e fa un bel sonno di recupero, questa eccitabilità si riduce e si rinormalizza tornando ai livelli di base, e questo succede tanto più onde il cervello fa. Quindi diciamo, si dimostra questa continua oscillazione dell'eccitabilità del cervello durante la giornata e infine dopo sonno, per dire che il cervello che abbiamo la sera non è lo stesso che abbiamo la mattina, proprio in termini strutturali di eccitabilità di circuito. Senta, ma chi è che dice a queste onde le cose da spazzare via e quelle da tenere, la differenza tra le cose buone e le cose inutili? Perché hanno una loro intelligenza, no? Per quello che ne sappiamo adesso, potrebbero anche non avere intelligenza. Potrebbe essere semplicemente una pressione selettiva, per cui lei immagini di fare sulla spiaggia un castello con delle torri più alte, certe torri più basse, poi ci sono dei mucchietti di sabbia che sono caduti per sbaglio. Arrivano delle onde che una dopo l'altra, senza nessuna intelligenza, abbassano il livello di questa sua costruzione. Un po' di onde, sostanzialmente sarà rimasta ancora la torre più alta o un paio di torri alte. Quelle piccoline sono sparite, i mucchietti di sabbia, a maggior ragione, sono spariti. Lei è rimasto con qualcosa che ha costruito, qualcosa di utile, che è stato un po' ripulito. In principio potrebbe anche essere, non essere un processo intelligente, ma questo è da vedere, perché è possibile anche che ci siano degli aspetti selettivi invece. Lei dice una cosa importante nel cervello corrisponde a qualcosa che è proprio fisicamente, anche per dirla semplicemente, più grosso. Una cosa secondaria è il mucchietto di sabbia. Lo è per forza, perché quando apprendiamo qualcosa, quando qualcosa è rilevante, ci sono dei meccanismi interni al cervello che rafforzano le associazioni rilevanti. Però noi impariamo per prove ed errore, quindi facciamo anche tante cose che sono sbagliate, che vengono parzialmente sedimentate, ma non che non vengono rinforzate, quindi rimangono deboli. Bene, grazie professor Massimini, è stato molto chiaro, quindi che dire, andiamo a dormire. Andiamo a dormire. Vi auguro tante belle onde. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Chiara, qual è il tuo piatto preferito? La pizza, direi. Ma senti, se si avvicinasse uno con una pizza sulla testa per chiederti di uscire, tu cosa faresti? Beh, scusa la battuta, ma gli tirerei una pizza. Sì, no, dai, a parte gli scherzi, una pizza in testa cosa significa? Boh, penserei che non è proprio appostissimo, però, in che senso? E invece per le femmine di Corinopoma risei, una specie di pesce tropicale originaria di Trinidad, è la cosa più normale del mondo. E in che senso, scusami? Cioè, i maschi di questa specie attirano le femmine con una protuberanza, chiamiamola una bandierina sulla coda, che imita la forma del cibo preferito dalla compagna che loro stanno puntando. Insomma, non so, una larva di mosca, un coleottero, una formica, un insetto, perché si cibano di insetti. Cioè, una specie di esca, come se fossero dei pescatori. Esatto, proprio così. È uno studio che è uscito su Current Biology, uno studio dell'Università di Uppsala in Svezia, e insomma i ricercatori si sono accorti che i maschi di questa specie hanno una grande varietà di forme di questa, appunto, chiamiamola esca, una bandierina appunto, che già si sapeva che serviva a trarre la femmina, ma non avevano ancora capito che potesse avere a che fare con il cibo. E invece i ricercatori hanno visto che le femmine che si nutrono soprattutto di formiche preferiscono i maschi che avevano l'esca a forma di formica. Esatto, vedo che hai capito perfettamente. Quelle che mangiano le larve di mosche preferiscono l'esca a forma di larva e così via. E questo è interessante anche dal punto di vista evolutivo, perché alla fine, anche se adesso è un'unica specie questa, potrebbero nascerne più di una, insomma, anche se le condizioni in cui vivono sono le stesse, però è una prova del fatto che alcuni caratteri sessuali secondari possono guidare appunto la differenza delle specie. Si potrebbero differenziare in due specie diverse. Esatto. Invece io volevo parlarti di un'altra specie di pesci, non questi di Trinidad, un po' più comune dalle nostre parti, le trote, insomma, le conosciamo tutti. Quindi sono quelle che non pescano i maschi. Ma che peschiamo noi. Esatto. Ecco, sì. Ecco, le trote si orientano annusando, facendo così col naso, il campo magnetico terrestre, e lo fanno, a parte gli scherzi, grazie ad alcune cellule nel loro naso. Sulla membrana di queste cellule ci sono dei cristalli di magnetite, che è un minerale appunto ferroso, ed è molto sensibile al campo magnetico. Insomma, è come se avessero una bussola nel naso. Ecco, è esattamente così. È da diversi anni che si sospetta l'esistenza di un meccanismo del genere in molte specie, soprattutto quelle che migrano, anche gli uccelli, e che danno appunto prova di riuscire ad orientarsi sfruttando il campo magnetico della Terra. E finora non si era capito in realtà quale fosse proprio il meccanismo, come facessero. E adesso un gruppo di ricercatori internazionali di varie università ha isolato per la prima volta le cellule che potrebbero essere responsabili del senso magnetico di questi uccelli. Non so se un po' di tempo fa te lo ricordi, avevamo parlato anche del senso di orientamento dei piccioni. Esatto, ecco, sì. Potrebbe essere proprio questo stesso meccanismo. Lo so, l'immagine che esce dalle ricerche biomediche che riguardano lo spazio sono poco avventurose per quanto riguarda i viaggi umani. Non sarà facile. Non sarà facile perché stare senza gravità non fa bene al nostro corpo. Non parliamone per viaggi di anni, ma anche stare sulla superficie lunare non è cosa banale. Quindi è probabile che il futuro sarà la Blade Runner. Vi ricordate gli androidi che raccontavano le cose mai viste da umani? Ecco, ci andranno loro. Sulla Luna però c'è anche un problema di stare in piedi, e questo è più semplice. Si stanno studiando robot bipedi che riescono a camminare sul suolo lunare, dove la gravità è un sesto di quella terrestre. La difficoltà è che i piedi in pratica toccano poco il suolo sulla Luna. La forza che mette un uomo nel camminare, infatti, non può essere usata come sulla Terra, perché si avrebbe una spinta tale da far fare salti di 2 metri ogni volta. Sembra, in conclusione, che la tecnica migliore sia quella di imparare la pratica di una specie di piccola corsetta in punta dei piedi. Così hanno fatto gli astronauti, ma attenzione, l'esperienza fatta complessivamente è quella di poche ore di movimentazione lunare. Sono stati su un po' di equipaggi, ma insomma globalmente forse ci saranno, che ne so, 100 ore, credo, non di più. Comunque anche per i robot si sta pensando di prendere questa direzione, farli saltellare un poco, non tanto, pare che renda anche meglio in termini di stabilità dei robot, voglio dire. Un argomento non particolarmente simpatico, no, Chiara? No, però è importante essere ben informati e sapere che insomma in Italia non siamo messi poi così male come in altri ambiti, diciamo. E per trattare questa cosa che riguarda i nostri alimenti e la nostra alimentazione abbiamo qui Fernando Maurizi. Buonasera Maurizi. Buonasera. Lei è chimico e svolge tutta un'attività di consulenza e analisi per grandi realtà che lavorano sulla distribuzione alimentare, infatti questo è estremamente importante per l'argomento che stiamo trattando, però è anche segretario del Consiglio Nazionale dei Chimici che recentemente ha tenuto un appuntamento su un tema, l'ha tenuto a Roma. Sì. Sì. Tema Roma, era superiore di sanità. Esatto, e il tema era le micotossine nella filiera agroalimentare. Sì, è un problema che ha un'entità abbastanza importante nella nostra filiera anche alimentare. Infatti volevamo capire da lei innanzitutto che cosa sono le micotossine e poi insomma che il problema è. Sì, dal greco micos significa appunto fungo, muffa, e praticamente le micotossine sono delle muffe ubiquitarie presenti in tantissime specie vegetali. Praticamente sono presenti nei cereali e in tutta una serie di prodotti derivati, perché i cereali vengono utilizzati anche nell'alimentazione animale, immaginatevi quindi la filiera quanto può essere lunga. La particolare attenzione da parte dei produttori, per esempio, di cereali allora devono fare delle coltivazioni areate in modo tale che non si sviluppino muffe durante la crescita delle piante. Devono stare attenti a fare una raccolta in periodi non di particolare umidità, quindi dopo le piogge e così via. Che favoriscono i funghi, certo. Che favoriscono l'insorgenza. Devono stare attenti poi allo stoccaggio di queste granaglie, cereali, eccetera, in modo tale che nell'insilaggio, nella conservazione, non si sviluppino micotossine. Perché poi, se noi diamo un derivato come potrebbe essere un insilato di mais come mangime alle mucche o così via, ce lo ritroviamo nel latte. Vogliamo raccontare che la prima volta a fine anni 50 scoperte in una nave che portava praticamente delle noccioline americane, che provenendo da paesi diciamo terzi, dal Sudafrica, aveva preso umidità durante il viaggio e quindi apparentemente non presentava difetti. In realtà si erano sviluppate quantità elevate di micotossine, e dal 1961 praticamente che c'è questo controllo un po' in tutto il mondo. Ma mi scusi Maurizio, ma perché non c'erano qui? Cioè sono micotossine, no. Ci arrivano da altri continenti? No, è che ce ne siamo accorti solamente in quel momento. Ah, beh, quindi è un caso. Cioè, considerate che stiamo parlando di micro quantità. E oggi i livelli di analisi che noi facciamo sono tali per cui riusciamo a vedere dei microgrammi. E certo, prima e una volta non si vedevano col microscopio, certo, ma oggi, con tutto che riusciamo a vedere dei microgrammi, se il campionamento non è fatto bene, noi rischiamo di trovare dei valori che, per esempio, diciamo 10 e poi l'incertezza di misura può essere 15 o può essere 5. Certo. Quindi stiamo parlando veramente di micro quantità, e una sezione del congresso era particolarmente dedicata alla strumentazione con cui vengono fatti i rilievi e i controlli per le micotossine. Per l'analisi. Sono muffe che producono sostanze tossiche, quindi per si questo chiamano noi micotossine per questo motivo. Ecco. Sostanze tossiche che purtroppo hanno anche dei risvolti abbastanza pesanti nel soggetto che ne viene a contatto quando le quantità sono piuttosto elevate. Sì, l'effetto possiamo dire che è un po' come quello dei funghi, quelli che ovviamente non sono commestibili. Non così grave, ma non così rapido, no, insomma. Diciamo, possiamo dire qualcosa di paragonabile ai funghi velenosi, però in realtà sono tutta una serie di composti chimici indesiderati che vengono fuori da presenza di umidità nelle derrate alimentari quando vengono mal conservate. In particolare quali? Cioè, quali sono i cibi che vengono coinvolti? I cibi che vengono coinvolti come cibi veri e propri possono essere solamente quelli derivati, tipo, che ne so, le farine di cereali vari, possono essere anche il latte, le spezie, frutta secca, prodotti a base di cacao, prodotti a base di carne. Maurizi, com'è che arriva? Cioè, lei dice presente nel latte, vuol dire che quando andiamo a comprare del latte in un supermercato, in quella confezione ci sono? Sì, le micotossine ci sono sempre. La legislazione fissa dei limiti e chiaramente questi limiti sono piuttosto restrittivi e oggi l'industria è particolarmente attenta a non superarli. E quindi questa accortezza deve esserci nella coltivazione, deve esserci nella conservazione, deve esserci nella trasformazione di questi cereali o di altre derrate alimentari che possono contenere micotossine. Ecco, ci sono tantissimi tipi, sono circa 300 le tipologie di queste micotossine. Sì, signore. E cosa prevede la legge che tutela i nostri cibi? La legge regolamenta, diciamo, fissa dei limiti di presenza delle micotossine nei prodotti derivati da cereali o da altre vegetali. Fanno sì che il prodotto che poi viene consumato non presenta pericoli per la salute. Perché le micotossine sono, come dire, inevitabili, ci sono per forza. Esatto. Bisogna vedere se al prodotto finale sono presenti in una quantità pericolosa, eccessiva. Però dal rilevante punto e pericolosa, certamente. Dal punto di vista del controllo, come dire, è un autocontrollo, l'azienda è responsabile dei dati che dà, è così. È così, però adesso c'è anche una grossa accortezza da parte degli enti preposti, NAS piuttosto che ARPA, per cui vengono fatti diversi prelievi mirati su prodotti che potrebbero contenere micotossine, soprattutto per il controllo, per vedere quello che c'è in circolazione. Sulla base di questi valori che sono stati rilevati, riscontrati e tabellati dal Ministero della Salute, viene fatto un discorso di maggior accortezza nel controllo stesso, diciamo così. Il controllo viene sempre più mirato quanto più i livelli di presenza di micotossine negli alimenti è rilevante. Ci diceva fuori onda che i controlli, l'attenzione in Italia è alta, diciamo che da questo punto di vista siamo ben messi. Sì, noi in occasione del congresso abbiamo avuto delle relazioni da parte dei rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono particolarmente attenti a questi livelli di attenzione sulle micotossine, e è venuto anche fuori un discorso, per esempio si è parlato di micotossine e celiachia, si è parlato di micotossine e autismo, anche per vedere se questi alimenti che potrebbero avere dei livelli di attenzione di micotossine possono poi essere cause di patologie, ma diciamo più che cause, accrescimenti in questi soggetti particolarmente delicati. Va bene, grazie Maurizi. A lei. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Arrivederci. E con questi maledetti piccoli funghetti però chiudiamo la puntata e anche la prima di agosto. La prima agostana, e noi vabbè dai, facciamo a tutti una volta per tutte buone ferie, buone vacanze a tutti per chi si trovasse in luogo di villeggiatura. Noi ciao. Comunque siamo qui, la prossima settimana ci risiamo. Ah, noi non ci spostano. Non ci sposta nessuno. Buona settimana, ci vediamo qui fra 7 giorni. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.